Rieccoci a Radio Città Fujiko, io sono Ludovica Amico e oggi con me, collegato al telefono, c'è Alessio Mariani, in arte Murubutu. Ciao Murubutu e benvenuto a Radio Città Fujiko. Grazie mille per l'invito, grazie. Grazie a te, per noi è sempre bello averti qui con noi. Oggi ti abbiamo invitato per parlare di un nuovo progetto che sta per partire, un nuovo format. Sì. Di che cosa si tratta? Sì, il nuovo format, diciamo, è un talk sempre di tipo musical letterario, ma una curvatura più specifica sui romanzi, quindi in particolare sulla narrativa e sul legame tra il rap e la narrativa. È un legame che tra l'altro nella tua musica è sempre stato presente, infatti ricordiamo che tu sei un insegnante, quindi sicuramente la letteratura, la filosofia sono qualcosa che si trovano nei tuoi testi e l'abbiamo visto anche con Infernum, che è l'ultimo album che hai pubblicato con Clavergold. Che cosa significa per te questo legame? Come la letteratura si lega alla musica? Sì, io insomma già da diversi anni, come hai detto tu, che lavoro molto sul versante dello storytelling rap, e cioè le mie canzoni sono per l'appunto delle narrazioni sistematiche che traggono a piene mani dalla narrativa, ma non solo, anche dalla poesia, dalla storia e dalla filosofia. Sì, l'album con Clavergold, per esempio, è un tributo alla prima cantica di Dante, poi ci sono tanti tributi, tra cui anche l'ultimo singolo che ho pubblicato con Carlo Corallo, dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino. Quindi è una riflessione sostanzialmente sulle potenzialità che ha il rap rispetto alla letteratura e alla narrativa, e come si possa, anche con una grande ricaduta didattica, utilizzare il rap per esemplificare lo stile e i contenuti di determinate correnti letterarie, che vanno per esempio dal dolce stil novo di Dante, ma per arrivare anche al realismo magico sudamericano, oppure ha anche una letteratura italiana contemporanea che in questo periodo, secondo me, sta producendo tanti talenti. Certo, poi di te si dice che tu sei stato un primo che è riuscito a portare il rap, che è un genere che spesso viene un po' denigrato, considerato un po' una cattiva influenza nelle scuole. Sì, effettivamente lo spunto, diciamo, più intrigante del talk è proprio questo, e cioè che spesso peraltro è rivolto a insegnanti, ma non solo. Può essere il rap o la trap anche uno strumento che da diseducativo, come viene percepito e come talvolta è, può rappresentare invece un veicolo di comunicazione, di acculturazione, di educazione? Secondo me sì, e provo a dimostrare come questo può realizzarsi concretamente e come sia opportuno che chi fa educazione e formazione possa avere un valore aggiunto quando comprende ed utilizza questo linguaggio. Ok, attraverso questo nuovo progetto vorresti anche ripercorrere le tappe del rap in Italia a partire dagli anni 90. Tu come ti sei avvicinato a questo mondo e che cos'è per te il rap oggi? Avendo, insomma, un'età, diciamo, piuttosto antica, ho vissuto varie fasi dello sviluppo del rap, e quindi metto in rilievo quello che è stato l'utilizzo del rap rispetto alla letterarietà, rispetto alla comunicazione e, non ultimo ma sempre importante, rispetto anche ai contenuti politici. Questa è una domanda che sicuramente ci stiamo ponendo tutti. Chi sono stati per te gli artisti di questo grande mondo del rap che sono stati più significativi nel momento magari della tua formazione, quando ti sei avvicinato a questo genere? Beh, è sicuramente un artista che mi ha influenzato tantissimo agli inizi, ma anche per un certo periodo, è stato Lux, sia dal punto di vista dell'invettiva verbale, ma anche dal punto di vista politico. E poi dopo, questo per quanto riguarda l'Italia, se no per quanto riguarda l'estero ce ne sono diversi, Mos Def, Common per esempio, ma dal punto di vista tecnico anche mostri sacri come Method Man o Slick Rick, e quando non Beanie Sigel. Allora, in chiusura ricordiamo ancora perché ti abbiamo invitato, quindi per questo nuovo format, magari qualcuno si è collegato adesso, di questi talk che vedranno protagonista Murubutu, che racconterà il legame fra rap e letteratura. Che cosa ci si potrà aspettare di preciso da questi incontri? Qual è il messaggio che vorresti lanciare? Sì, e il messaggio che lancio è innanzitutto che i generi musicali, in particolare quelli più diffusi tra i giovani, e cioè il rap e la trap, prima di essere giudicati devono essere compresi e decifrati, e in secondo luogo che possono rappresentare in vari ambiti, da quello educativo a quello formativo, ma anche a quello del divertimento, per l'appunto dei medium estremamente efficaci per avvicinarsi ai giovani. Grazie Murubutu per essere stato con noi e ci risentiremo quando potremo dare qualche appuntamento preciso per partecipare, certo, a questi eventi. Grazie a voi per la disponibilità e a tutti gli ascoltatori.